Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Eccoci qua per il saluto domenicale da parte di Gesi e di Antonio. Oh Antonio carissimo, siamo già alla Domenica delle Palme. Mamma mia. E poi ci sarà Pasqua. Pasqua, che bello che è Pasqua. Molto bello. Se ci sarà un bel sole così. Allora, nessuno sa chi sono ancora, però io voglio dire che questa mattina io ho fatto la voce recitante nella mia parrocchia del Passio Secondo Matteo. Bravo. Domenica delle Palme. Bene. Allora presentiamo subito il nostro ospite che naturalmente molti riconoscono dalla voce, ma noi andiamo a presentarlo subito, che è il nostro amico Gian Domenico Mazzocato, al quale diciamo buonasera, ciao, bentornato. Allora nel frattempo però noi facciamo un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it e ricordiamo la possibilità di download e di streaming, naturalmente come ascolto, della trasmissione. Un saluto cordiale al nostro regista e al nostro coordinatore. E riprendiamo con il nostro amico Gian Domenico Mazzocato, che naturalmente è universalmente noto come figura di punta della intelligenza trevigiana e non solo, il quale è presidente dell'Ateneo di Treviso, prestigiosa istituzione fondata da Napoleone nel 1810, naturalmente, ed è uno scrittore che racconta la nostra terra. Sì. E quindi a maggior ragione diciamo abbiamo voluto che fosse presente con noi. Buonasera di nuovo Gian Domenico. Buonasera e grazie a voi dell'invito. Allora, prima di dare la parola al nostro ospite, ci ascoltiamo una canzone. E stasera così ho voluto fare un po' di canzoni dei ricordi. E cominciamo subito con una canzone primaverile, diciamo. Aprite le finestre, che ha vinto il Festival di Sanremo del 1956 ed è cantato da Franca Raimondi. Ormai la prima rondine è tornata, nel cielo limpido comincia a volteggiare, il tempo bello viene ad annunciare. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, lasciate entrare un poco d'aria pura, o del profumo dei giardini e prati in fiore. Aprite le finestre ai nuovi sogni, bambine belle, innamorate. E forse il più bel sogno che sognate sarà domani la felicità. Nel cielo fra le nuvole d'argento, la luna ha già fissato appuntamento. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, festa dell'amore. Aprite le finestre al nuovo sole. Sul davanzale un piccolo usignolo, dall'ali tenere, le piume morbide, ha già spiccato il timido suo volo e contro i vetri ha cominciato a picchiettare. Il suo più bel messaggio vuol portare. È primavera, aprite le finestre ai nuovi sogni, alle speranze, all'illusione. Lasciate entrare l'ultima canzone che dolcemente scenderà nel cuore. Nel cielo fra le nuvole d'argento, la luna ha già fissato appuntamento. Aprite le finestre. Eccoci di nuovo in studio e diamo subito la parola al nostro ospite, al dottor Domenico Mazzocato. Gian Domenico, scusate. A lei. Beh, insomma, io devo dire che i titoli accademici, dot, prof, magari ci sono, ma francamente mi pesano addosso. Non sono così rilevanti, diciamo. Mi pesano addosso come una cappa di piombo. Io preferisco che mi chiamino tutti. Va bene, va bene. Gian Domenico, se ne parla. E allora in questa serata della Domenica delle Palme che cosa ci racconta? Ma io, insomma... uno scrittore racconta le cose, certo, di cui scrive, e devo dire che ho due romanzi che stanno seguendo due strade completamente diverse. C'è un primo romanzo di cui si sono innamorati due agenti letterari importanti e che stiamo cercando di far girare a livello italiano. Poi magari, se volete, questo è un argomento particolarissimo, se volete magari poi ne parliamo. Certamente. Sì, E invece c'è un altro romanzo per, diciamo, tra virgolette, il mio pubblico del Nord-Est, ancora di argomento veneto, la storia di un processo, anche in questo caso celebrato a Treviso, ma è un'affermazione che va presa un momentino con le molle, perché poi devo dire una cosa: celebrato a Treviso nei primi anni del Novecento, diciamo gli anni che buttano già sulla guerra, ma non sono ancora guerra, in cui si sente proprio questa società ancora feudale che poi dalla Prima Guerra Mondiale verrà spazzata via. Allora, è la storia di un incidente che con tutta probabilità è stato un delitto. In un bosco del Vicentino, non voglio dire in che posto di preciso, perché ci sarebbero delle identificazioni troppo facili. No, giustamente. Anche perché ho mantenuto abbastanza i cognomi nella narrazione. In un bosco, diciamo, di padrone, entra un bambino per fare legna, è l'ennesimo bambino che entra per fare legna, per rubare, per portare via qualcosa, pochissime cose. Naturalmente, quando mandi un bambino dentro il bosco, cosa può portare fuori? Una fascina. E alla sera, nel dramma generale, lo trovano impiccato. Il processo ricostruisce che, ma non riesce a provare fino in fondo, che il padrone del bosco lo ha sorpreso, gli ha dato una passata di botte ed è andato troppo oltre, poi per cercare di camuffare la cosa lo ha impiccato, magari lui giocando si è impiccato da solo. Naturalmente la cosa è del tutto inverosimile, ma sulla incapacità di provare l'autentica dinamica dei fatti si gioca tutto il processo. Questo è un fatto davvero accaduto, ed è accaduto nel Vicentino, non dico dove, ripeto. Però io, insomma, sono Bosco Veneziano e altre cose, sono il raccontatore del bosco proibito. Appunto, per eccellenza. È ricorrente l'argomento. E allora non effetti. Ho resistito alla tentazione, ho portato il fatto sul bosco proibito del Montello. Del Montello. E l'ho ambientato siccome voglio che si riconosca che c'è una verità macelata dalla finzione, l'ho ambientata nel paese che non è Santi Angeli, ma è paese del Santo Angelo Custode, che si capisca, ma che non si capisca, ma che non si identifichi. Questa è una vicenda che io conosco da molto tempo, che ho approfondito, di cui ho letto gli atti processuali, ma mi era stata nell'anima e nella testa per molti, molti anni, perché non riuscivo a raccontare da che parte cominciare a raccontarla. Poi mi sono imbattuto nella storia di un prete, che nel romanzo io chiamo Don Fervido, di un prete dalla vita avventurosissima che approda proprio in una parrocchia di collina, e allora ho scelto di raccontare dal punto di vista di questo prete, che è un prete in crisi, non in crisi sulla sua vocazione, ma in crisi su quella terribile fiumara di sentimenti che un delitto in un piccolissimo borgo convoglia. C'è stata, quando mi devo fermare, me lo dite voi. Sì, tranquillamente. C'è stata un'altra cosa che mi ha veramente tirato dentro, un po' come un meccanismo, se vogliamo, simile a quello che mi ha tirato dentro nella voglia di raccontare il delitto della contessa Onigo. E c'è stato questo fatto che quando avviene il delitto o incidente, che dir si voglia, comunque lo si voglia vedere, allora ci sono testimoni, la gente parla, sì, l'ho visto qua e là. Nei 7-8 mesi che passano dall'istruttoria alla celebrazione del processo, nel paese scatta il processo di omertà. Ma neanche, io la voglio chiamare normalizzazione, no? Normalizzazione. No, non è un'omertà, è che la gente comincia a pensare che se si vuole riacquistare un equilibrio forse bisogna smussare, dimenticare, troncare, non avere memoria piena, non mi ricordo, non compromette mai più di tanto, e allora questo processo. E poi mi sono imbattuto anche in una figura che alimenta un'autentica mitologia italica e veneta, e di cui non si parla mai. È quella che i sardi chiamano la Accabadora. Ed è la donna, guardate che c'era anche dalle nostre parti, sì. Quando in una famiglia patriarcale era l'ora di morire, lo si capiva. Si chiamava il prete, dagli la soluzione e che se ne vada in pace. Ma qualcuno non voleva morire e allora si chiamava i sardi. L'equivalente. Io nel mio romanzo la chiamo la Maria Ultima, si capisce perché sì, ultima. Bene, e lei dava, non si sa bene cosa, ma dava il colpo di grazia. Io ho chiesto all'antropologo che ha indagato queste cose, ma cos'è, una forma di eutanasia? No, mi ha detto, no. È un delitto vero e proprio. È un delitto vero e proprio. E allora c'è anche questa figura femminile attorno che fa un po' da dialettica a questo prete, che mi ha un po' quagliato il romanzo. Ho scelto questi punti di vista e la mia metodologia di scrittura è che io i romanzi, su cui mi documento, perché per ogni cosa in modo minuzioso, sì, cioè io dico la verità, io dico sempre, per scrivere a mezza riga leggo un libro e in certi casi arriva ad essere vero. Io il romanzo me lo scrivo in mente e poi lo avete, come dico io, lo sbobino sì. Sbobino, vero. L'ho sbobinato in 2 mesi, insomma. Però. Perfetto, allora noi fermo restando il fatto che mi sembra che potrebbe essere come materiale utile per una tesi sulla psicologia delle masse, questo certo. Romanzo, e noi andiamo ad ascoltarci un'altra canzone. Bene, che cosa ci ascoltiamo, Antonio? Corde della mia chitarra, se non ricordo male, di Nunzio Gallo. Bene. L'hanno accolta le stesse cose, l'hanno attesa le stesse rose, dolce sogno dagli occhi verdi, è tornata ma troppo tardi, troppo tardi, per chi aspettò. Corde della mia chitarra, se la mano trema sull'accordo, se la musica si perde nell'indifferenza d'uno sguardo, corde della mia chitarra, perché vi fermate, perché non suonate voi sole per me? Oh, com'era dolce questa musica! Oh, e come adesso sembra inutile se non ci ascolterà. Non vi fermate, corde della mia chitarra, suonate per me. della mia chitarra. Perché vi fermate, perché non suonate voi sole per me? Ah, com'era dolce questa musica. Ah, come adesso sembra inutile se non ci ascolterà. Ed eccoci di nuovo in studio per un'altra tranche di questo meraviglioso racconto del nostro sì, ospite. Che è proprio interessante. Ma sì, ripeto, la storia di questo delitto che io ho trasportato in cima al bosco proibito per eccellenza, che è il bosco del Montello. Ripeto, siamo negli anni che guardano già verso la prima guerra mondiale. Il processo viene celebrato a Treviso. Io, perché si capisca che stiamo parlando di una cosa che c'è stata sì, ma che va in qualche modo mediata da un processo fantastico, di elaborazione fantastica, io per esempio ho scelto le cronache di un giornale che in quel periodo non usciva più, che è la Gazzetta di Treviso. Ah. Cioè le cronache che io ho trovato le ho trovate sul Gazzettino, che allora già usciva come quotidiano veneto con pagine anche locali. E, ho scelto di raccontarlo attraverso la Gazzetta di Treviso. Nessuno degli articoli che ho riferito è stato davvero scritto. Certo. Adopero linguaggi diversi. Quando parla il prete parla in un certo modo. Il passato del prete è un passato molto avventuroso, perché è stato soldato durante i moti di Milano del 1898 e ha dovuto sparare sulla folla perché era un soldato di Bava Beccari, il macellaio che poi il re Sciaboletta ha fatto senatore della del regno, lo ha premiato con la medaglia e lo ha fatto senatore del regno, perché vogliamo ricordare ci sono stati 100 morti ufficiali, ma probabilmente ce ne sono stati anche altri nelle case private. Voglio ricordare che era l'agente della Pirelli, così, che chiedeva, la chiamano la guerra del pane oppure la guerra dello stomaco. Ha sparato con i cannoni ad alzo zero sulla folla, con i cannoni sulla folla in piazza Duomo a Milano. Uno dei casi proprio da accapponare. E mentre la gente di Milano piangeva i propri cari, il re lo benediceva come un benefattore della patria. E poi ha disertato e è andato a fare il baleniere in America, e ogni tanto in America, dall'altra parte del mondo, insomma, no? A Nantucket, che tra le altre cose è uno dei posti di cui si parla in Moby Dick, esatto. Quindi il baleniere per eccellenza, e ha questa vita estremamente avventurosa. Alla fine di uno dei suoi vagabondaggi trova in cui lui arriva vicinissimo alla morte, alle paure ultime, e si interroga sui grandi sensi della vita, sul senso della sua esistenza. Alla fine di uno dei suoi vagabondaggi per il mare trova la lettera di un suo vecchio professore del seminario, avventurosamente arrivata a uno dei recapiti che lui ha avuto e che, ripeto, quasi per miracolo gli arriva in mano, e gli dice: guarda che qui si sta preparando la guerra, non vanno per il sottile, abbiamo mosso le carte, l'accusa di diserzione nei tuoi riguardi è caduta, se torni e se, per lui aveva già studiato in seminario, se torni e se ti dimostri pronto ad arruolarti, vedrai nell'esercito del re, vedrai che va tutto bene. Però, gli dice il professore, io spero tu ti ricordi che da ragazzo, e se ho intuito questa cosa non può essere morta in te, che da ragazzo tu avevi deciso di militare in un altro esercito, il cui imprimatur ti viene dato da un vescovo che ti dice tu sarai Melchisedec e sarai sacerdote in eterno. Esatto. E lui torna e decide di farsi prete, e vescovo è Longhin in quel periodo. Lui va da Longhin e gli chiede di essere mandato, lui è nativo di Ciano, chiede di essere mandato sulla sua collina a fare il prete. Longhin, ricordo che dal 1903 è Papa Sarto, sul soglio pontificio c'è Papa Sarto, lui viene accontentato e appena arriva deve fare un po', si barcamena, deve fare i conti con questo terribile fatto di sangue, in cui lui riceve delle verità che solo come prete in confessionale. E naturalmente questo scatena una dinamica, una dialettica. Tu devi andare dai carabinieri a dirglielo. Fa: ma io non ho fatto niente, ma esistono anche i peccati di omissione. Se tu sai la verità e non la vai a dire, è come se tu fossi sporca di peccato, eccetera. Adesso è interessantissimo. Diatribe e problemi di lunga portata. Giustamente. Il titolo, guarda, ce l'ho sotto gli occhi perché l'ho adoperato per un'altra cosa. Allora, il titolo è provvisorio perché poi sono gli editori che decidono. Il titolo che prima che mi è venuto in mente era Il volo della Poiana. Sempre immaginifico, voglio dire. Il volo della Poiana mi ricorda uno scrittore che io non amo, che è Mauro Corona, Il volo della Martola. Esatto. E allora, raccogliendo anche un suggerimento di una delle amiche, che perché io quando ho finito un libro lo mando a leggere a una decina di persone in tutta Italia, che mi dicono incongruenze, dallo sbaglio di battuta all'incongruenza, certo, bisogna fare così. Un bel aiuto. Mi ha suggerito una cosa che io poi... E il titolo che ho pensato io, ma ripeto, non è detto che resti, anzi non resterà, Il dolore della Poiana. Il dolore della Poiana. La Poiana che gira sopra questo prete è un po' l'immagine del prete stesso, così come l'albatro è l'immagine del Cristo. Insisto sul fatto dell'immaginifico, perché uscirà? Naturalmente il nostro ospite... Ma penso, se le cose vanno come vanno, questo è un libro che deve uscire a Natale, insomma. Perfetto. Il nostro ospite, come tutti o forse non tutti sanno, è, oltre che diciamo un prefatore di gran classe, titolista straordinario. Belle quei due titoli. Colgo anche l'occasione, che non abbiamo fatto prima, di un saluto alla signora Egle. Salutiamo la signora. Sempre splendida, sempre molto molto in gamba. La mia donna, siamo insieme da 43 anni. Bene, so che fate delle belle gite, delle belle... Ma adesso abbiamo vicende familiari, se riusciamo a Pasqua andremo in Umbria, posti così un poco noti, perché noi ormai l'Italia la conosciamo tutta. Adesso possiamo procedere. Andiamo con avanti. Il racconto. Sì. Prego. Proseguiamo con... Sì, proseguiamo con il racconto. Allora dicevo, il titolo è Il dolore della Poiana. Il dolore della Poiana, che trovo estremamente... suggestivo, molto concreto, ma suggestivo. E poi, ecco, devo dire, l'ultimo dei personaggi del libro è la collina, con le sue storie, scritte. Ricordo che il Montello è una collina di origine carsica, di origine tettonica, cioè si è sollevata per avvicinamento delle masse continentali. Non è una collina morenica. Esatto. Qualcuno può pensare che le ghiaie del Piave, delle fiumare che una volta erano il Piave, no, è una collina di origine carsica. Ecco, nelle pietre, nelle doline, nei prati c'è una storia scritta, che è una storia soprattutto sacra. Prima dell'avvento di Cristo c'erano le anguane, c'erano dopo, per esempio, il mio prete nasce a Ciano, no? A Ciano c'è, secondo antica leggenda, un'antica sorgente. Sapete che lì vicino c'è il paese, non di Santa Mama, come è scritto sui cartelli, ma di San Mama, come dovrebbe essere, perché è San Mamante oppure San Mamerzio, ma è diventato Santa Mamma, sì. Ma in realtà la mamma non c'entra assolutamente niente. E lì nel Buoro di Ciano c'è una sorgente che si diceva rendesse buono, che aiutasse le partorienti e che rendesse più sostanzioso il latte che le puerpere davano ai loro figli. Se noi andiamo a vedere, nell'antichità c'era il sacro, c'era Giunone, c'erano divinità prelatine, dopo è arrivata la Madonna, ma questi luoghi deputati al sacro hanno continuato a produrre sacralità. Ecco, l'ultimo dei personaggi è proprio la collina, con le sue storie, con le sue pietre, col suo DNA, con i suoi misteri. Un personaggio corale, naturalmente, che fa... Il grande mistero del moderno, del Montello, è la sua certosa, che noi possediamo in un'antica stampa, ed era una cosa enorme, grandiosa, con chiostri e così via. Penso. E però si dice che è stata distrutta da Napoleone, però di quella certosa, se vai lì non c'è neanche non una pietra. Rimane pietra. Allora quell'immagine che abbiamo forse è una ricostruzione ideale, ecco. Era molto più piccola. E però non sono mai state fatte delle prospezioni, si dice che lì ci fosse un cimitero dei monaci, sono mai state. E d'altra parte il terreno è un terreno carsico, voi sapete, lì ci sono due doline, voi sapete che se mettete un'automobile al fondo di una dolina, nel giro di poco tempi geologici, ma brevi comunque, la dolina se lo mangia e tu ti trovi l'automobile 100 metri sotto nelle grotte. Mamma mia. Sì. Proprio il suo movimento fa sì che venga assorbito dal terreno. Quindi insomma ci sono anche misteri moderni. Ci sono dei, eppure anche le pietre parlano. Soprattutto le pietre del Montello. Stato, per esempio, sapete che dal Montello nasce un unico fiume, che è il Giavera, che poi diventa Pegorile, poi diventa Botteniga, ma è sempre quello. Il Giavera una volta nasceva dietro il Forame, che è dove adesso c'è il cimitero di Forame, buco, sorgente, no? Forame. Cioè, dove adesso c'è il cimitero di Giavera, del Montello. Adesso lì al massimo viene fuori qualche sbuffo di gasolio. E il Giavera nasce 200 metri più in basso, o 300 metri più in basso, davanti a dei appartamenti, adesso sono appartamenti, ma una volta quelli erano le prigioni in cui coloro che venivano sorpresi a rubare nel bosco venivano portati. Ricordo che Biadene era sede di una procura della Repubblica, e il Montello dal 1400 per mezzo millennio, fino alla legge Bertolini del 1898, il Montello è stato proibito ai montelliani, la diaspora di un popolo. Perché? Mamma mia. Perché sul Montello dovevano crescere i roveri, che poi... E perché proprio i roveri del Montello e non i roveri del Cadore? Perché il Montello aveva due passi, quella straordinaria autostrada d'acqua che è la Piave. La piave, che portava i tronchi, fluitavano liberi fino alla laguna, dove andavano ad alimentare gli squeri e gli arsenali della Serenissima, esatto. Che in certi momenti erano in grado di mandare fuori una galea al giorno. Una galea al giorno. Andavano anche a riscaldare, ahimè, ma così è la storia, il deretano delle dame, delle infreddolite dame veneziane. Bene, amena conclusione. Sì, concludiamo questa tranche e andiamo per la prossima canzone. Le donne veneziane sono particolari. Allora, la terza canzone in programma è Rondinella Forestiera di Claudio Villa. Guarda che bello tramonto, le stelle si son date appuntamento, mentre col cuore avvinto sospiri in una lacrima di pianto. Tu parti e non hai voglia di partire, tu guardi questo cielo e questo mare. Io so dalle tue lacrime sincere che non potrai scordare il nostro amore. Arrivederci bella forestiera, rondinella che pariti stasera. Il nido tuo lontano forse splendido sarà, ma il cuore col mio cuore incatenato resterà. Nel sogno sentirai come un tormento la mia voce velata di pianto, la voce di quest'anima che ancora sospira a te. Ti voglio tanto bene, non ti scordare di me. Fiori dei verdi colli che avete ornato i biondi suoi capelli, fiori celesti e gialli, più non vedrete quegli occhioni belli. Le labbra ai baci miei si sono chiuse, un treno la riporta al suo paese, la luna che dal cielo ci sorrise è triste come l'ombra delle case. Arrivederci bella forestiera, rondinella che parti stasera. Il nido tuo lontano forse splendido sarà, ma il cuore col mio cuore incatenato resterà. Nel sogno sentirai come un tormento la mia voce velata di pianto, la voce di quest'anima che ancora sospira a te. Ti voglio tanto bene, non ti scordare di me. Sogno sentirai come un tormento la mia voce velata di pianto, la voce di quest'anima che ancora sospira a te. Ti voglio tanto bene, non ti scordare di me. Eccoci di nuovo in studio e diamo la parola al nostro ospite. Ma no, c'era Antonio, sì, che voleva, sì, introdurre, sì, l'argomento. Esatto, io vorrei introdurre l'argomento che giochiamo in casa. Noi abbiamo La Vita del Popolo, che è il nostro, sì, settimanale diocesano, sì, che ospita settimanalmente una pagina, volta al mese. Era un desiderio. Sì, non ci starei sotto. No, no, una volta al mese naturalmente, ma tendenzialmente potremmo aumentare. Una pagina splendida curata dal nostro ospite, nella quale si sviscera praticamente un concetto, un qualcosa di filosofico, di morale, questo che sia dal punto di vista letterario. Quindi si esplorano gli anfratti praticamente della produzione letteraria. Sì, questa è un'idea che venne al direttore, don Lucio Bonomo, Monsignor, ah, sì, Bonomo, sì, il quale mi disse: ma perché non pensi una pagina così e così? Allora lui mi ha lasciato, devo dire, la più ampia libertà. Io ho strutturato una pagina, devo dire che lavoro in stretto contatto con la giornalista della Vita del Popolo, Lucia Gottardello, che cura alcune pagine, in particolare le pagine culturali. Cioè, se non avessi, come dire, come punto di riferimento la Lucia, non, insomma, più di tanto non combinerei. Prendo un argomento, può essere un argomento monografico, per dire, l'ultimo è stato, prendendo lo spunto dai 150 anni di uno dei più grandi libri che io abbia mai letto, Le Memorie del Sottosuolo di Fyodor Dostoevskij, ho parlato di Fyodor Dostoevskij, ho parlato dei futuristi e così via. Ma prendo un tema, adesso io ho sotto gli occhi l'elenco, perché questo era un argomento che tu, Antonio, mi avevi anticipato per mail. Insomma, sono quasi 80. Poi. Dividete, mamma mia, dividete per 12 e avete il numero degli anni che ogni prima domenica del mese viene fuori la mia rubrica. Il primo è stato prendo un tema, no, qualsiasi. Svolgo una mappa concettuale con titoli eccetera attorno a questo tema, poi prendo un aspetto particolare, ne faccio una piccola monografia e poi un altro aspetto particolare, quell'argomento visto attraverso un film, non voglio dire attraverso il cinema che sarebbe troppo, scelgo un film infatti. E ne parlo, quindi viene fuori una cosa molto mossa, c'è l'etimologia di quella parola, ci sono alcune citazioni in cui quella parola viene usata, viene proprio un panorama molto estremamente piacevole. Mosso sì. E qui ho trattato, ripeto, quasi 80, 78 per essere esatti, e dividi per 12, cosa fa 80? Tanti dividi? Anni. Fa 6, 7? Sì, insomma vuol dire, ecco, e garantisco che, sì, non è che stia grattando il fondo del barile, perché ne ho... Ne ancora tanti. Sì, ma insomma... questo no, ci fa piacere. Non vedo la fine. Allora, il coraggio, il dono, l'amicizia, la casa, il sacro, il fuoco, il libro, il denaro, il diavolo, la luna. Ho letto i primi 10, ma ce ne sono altri. Per le Olimpiadi di Londra ho fatto... un numero monografico sulla bibliografia londinese e allora lì si spazia dai romanzi dell'Ottocento che parlano di Londra alle moderne guide che parlano di Londra, il capo espiatorio, un numero particolare dedicato ad Elsa Morante, il tempo, il naufragio, le streghe, la soffitta, il tradimento, la metamorfosi, orgoglio e pregiudizio, ecco. Un pretesto per parlare di Jane Austen, sì, certo. Il Papa. Ho parlato del Papa, di il Papa in letteratura, esatto. Albert Camus, la mafia, New York, la beffa e la burla, Carlo Emilio Gadda, i bassifondi, i vulcani, Jack London, i non luoghi, cioè i luoghi, luoghi della fantasia, ma sì, quello sì. È i non luoghi 1, perché ho materiale per scrivere i non luoghi 2, i non luoghi 3. Ecco, non noi luoghi... cogliamo l'occasione per invitare i nostri ascoltatori ad esplorare il sito di vita. Certo. E dunque si trova nel sito di vita. E devo dire che per il tipo di rapporti che io ho con la vita del popolo, io posso mandare questa pagina a chi me lo chiede al mio indirizzo di posta elettronica. Allora venite a trovarmi in www.giandomenicomazzocato.it. Giandomenico Mazzocato si scrive senza niente in mezzo, si scrive 2z e una c. Giandomenico Mazzocato, www.giandomenicomazzocato.it. andate su contatti, trovate il mio indirizzo di posta elettronica, chi mi segnala la voglia di ricevere questa pagina la riceve tutti i mesi. Benissimo. A dire la verità, benissimo. Tutti i miei corrispondenti non la sto mandando da un paio di mesi perché sono sotto acqua col lavoro, soprattutto col lavoro dell'Ateneo. Grazie a Dio sono presidente dell'Ateneo da 6 anni, a termini di statuto quest'anno scado, poi mi tolgo questo fardello dalle spalle e torno libero di fare cose non che amo di più, ma cose che insomma sono quantomeno più sì. piacevoli. Sì. Sì. Ripeto, dal tema più frivolo al tema più, bene, splendido, più serio. Splendido. Benissimo, però vorremmo anche, visto che la curiosità incalza, il secondo romanzo. Se abbiamo il secondo romanzo, ma magari la prossima volta, se non avremo il tempo, di parlare più diffusamente dell'Ateneo di Treviso, delle sue attività, sì. Perché sì. Questa chiaramente è una cosa estremamente sì, importante. Certo. Ecco, allora lasciamo. Così lo faremo, lo faremo prima in della fine delle... Sì, certamente, certamente. Benissimo. Prego. Allora, prego. Parlo sì. Ancora un pochino. Allora, un giorno racconto come nasce sì. questo romanzo, che mi è costato tranquillamente 3 anni e mezzo di lavoro. Ed è venuto fuori un libro che è pubblicato, penso, sulle 400 pagine. Bello. Preciso subito che io ho capito che dovevo raccontare questa storia come un feuilleton, come un romanzo d'appendice. Sì. Ed è... No, anzi, faccio la storia dall'inizio. Un giorno viene a una mia presentazione un tale con cui io ero talora in corrispondenza, che si presenta qua a Missaria, ecco sì. Allora, questo personaggio è un personaggio, è uno dei più grandi oboisti viventi. Ah. Si chiama Giuseppe Nalin, se andate su, lui ha un suo sito, sì. Solo che ad aprirlo si sente straordinaria musica barocca. Si va su Google, si va su Google, si scrive. Si digita Giuseppe Nalin, viene, perché adesso non me lo ricordo, si digita, viene fuori il suo sito e si va, lo ha rinnovato anche di recente. Ma è trevigiano? Dunque lui è padovano, ah. È nativo però di Padova. Però un nome che sicuramente è già notissimo. Nome, insomma... discografia eccellente, lui ha scelto un profilo, come dire, lui fa l'insegnante di scuola, però per esempio ha fatto i Reali di Oslo, per non so quale occasione hanno voluto che il suo ensemble, che è il Sanssouci, facesse due anni fa con l'Ateneo di Treviso gli ho affidato sfruttando in maniera bieca e volgare la mia amicizia per lui, perché dopo l'amicizia è maturata, gli ho affidato a lui e al suo ensemble una straordinaria la prima, come dire, prolusione dell'Ateneo di Treviso. Abbiamo fatto Palazzo Giacomelli, un successo clamoroso. Ecco, allora mi fa, dice, senti, ci sarebbe una storia da raccontare. Io avevo tutt'altri progetti di scrittura, tra le altre cose avevo in mente il romanzo di cui ho appena finito di parlare. Sì, certo. Gli ho detto, siamo subito andati a mangiare una pasta asciutta, abbiamo subito solidarizzato, idee politiche affini, valori uguali, valori affini, eccetera. E lui era con la moglie Donatella, diventata anche lei carissima amica e mia affezionata lettrice. Allora, devo dirlo un po' in dialetto, lui fa, che sarebbe da contare una storia? E secondo me fa questo qua, che per gli amici è Beppi Oboe, Giuseppe Beppi Oboe. E secondo me so io che te saresti in grado di raccontarla. Questa è la storia di un castrato. Di un musico castrato nel Settecento. Quando siamo andati a vedere i documenti, non potendo visitare gli archivi di Parigi e di Varsavia, dove è stato, quando siamo andati a guardare i documenti, ci siamo resi conto che tutto quello che sapevamo di lui poteva starci in 10 righe. Praticamente un frammento proprio. Sì, proprio. Angelo Sugamosto, detto lo Zerino. Perché sapete che tutti i castrati avevano questa cosa. Naturalmente, quando tu metti in mano a uno scrittore una cosa che non si sa, lui fa un salto alto così, perché gli spazi lasciati liberi vengono riempiti dall'invenzione. Praterie. E allora lì, appunto, ecco, bravo, praterie da percorrere. E allora lui nasce nel Polesine. Il titolo è un nome tipicamente, ma anche qui è un titolo chiaramente provvisorio, Maleo. Nessuno sa cosa sia il Maleo, io lo spiego nel romanzo. È una sorta di napalm naturale. Devo interrompermi? No, andiamo avanti. Sì, sì, perché mi interessa. È una nebbia che aleggia in certe stagioni sul Polesine e corrode proprio gli arbusti. Ah. E questa nebbia pesante e corrosiva... mi è sembrata immagine e metafora della vicenda del mio anzoletto e l'ho messa nel titolo, che ripeto, naturalmente. Come si chiama? Maleo. Lui si chiama Angelo Sugamosto, detto lo Zerino. Nel romanzo spiego perché salta fuori, perché sapete, tutti i castrati erano noti come Farinelli, non si chiamava Farinelli, sì. Si chiamava Broschi, no? ecco. Sì, sì. E così, allora, tutto il romanzo, guardate che c'è molta verità in quello che vi dico, però è romanzata. Il romanzo in realtà nasce ai nostri giorni, quando io, andando a un mercatino dell'antiquariato in cerca di una cornice per incorniciare un vecchio diploma della Serenissima, mi vedo sbattere dietro dal venditore, dal bancarellaio, mi vedo sbattere dietro anche la tela che questa cornice conteneva, che io non volevo. Te la do per 2 soldi, prenditela, tienitela, così. Me la porto a casa E poco a poco la figura di questo personaggio ritratto emerge. No, comincia a incuriosirmi, a lavorarmi, e comincio a fare delle ricerche. Perfetto. Allora, adesso ci interrompiamo un attimo per l'ultima canzone. Allora, la quarta canzone in programma è cantata da Achille Togliani e si intitola Mogliettina. Silenziosa germogliava una canzone da quando la tua bocca mi baciò, e come petali di rosa le sue note sboccerà per dirti ciò che l'apro dir non può. L'incanto di una rosa profumata, deliziosa, sei per me, mogliettina. Il fascino soave della gemma più preziosa, sei per me, mia piccina. Un brivido m'assale nel pensare alla mia vita senza te, mogliettina. Ma il sole del tuo sguardo mi rincuore, la speranza torna in me, mia piccina. E col passar degli anni il cuore invecchierà, ma il nostro amore non morirà. Se qualche ruga sul mio volto apparirà, il desiderio dei tuoi baci in me vivrà. L'incanto di una rosa profumata, deliziosa, sei per me, mogliettina. Il fascino soave della gemma più preziosa, sei per me, mia piccina. E la canzone non avrà mai fine, se il labbro tace, il cuore ti parlerà. Eccoci di nuovo con il nostro ospite, che così continua a raccontarci del suo romanzo. Ecco, perché bisogna dire che negli spazi della canzone qui fiorisce una bella... discussione. Sì, una bella, una bella conversazione. Allora, dicevo, il mio angioletto. Allora, il romanzo è mezzo oggi, cioè è a capitoli inframmezzati, è la storia della mia ricerca della vera identità di questo personaggio, e parallelamente è la storia di questo personaggio. Alla fine, in un modo che ovviamente non rivelo, la sua storia personale confluisce nella mia storia personale e si va verso appunto un finale che è abbastanza a sorpresa. Racconto un fenomeno pesante, tremendo, di grandi colpe. Come sapete, c'erano dei precetti religiosi che impedivano alle donne di salire sul palcoscenico, e allora le sostituiva con questi castrati. Sì. I castrati potevano essere delle persone fortunate se vivevano bene la loro condizione e se gli andava bene. erano delle voci bianche, magari sì, addocchiate in un coro parrocchiale. Molte volte il pronubo di questa operazione era il prete. Venivano portati in città dove si... basta andare a vedere la su Wikipedia, castrati, eh? Venivano portati in città in cui questa operazione veniva. La mortalità era altissima, si parla immagino, sì, dell'80-90%. A Napoli si diceva che ci fossero dei cartelli, qui si castra, e le cose avvenivano in condizioni igieniche terribili. Immagino. Io racconto la storia della castrazione del mio angioletto e la racconto in un modo particolare, credo anche di buona efficacia, ecco, insomma, senza volersi imbrodare troppo. E dicevo, ha una vita lunga, avventurosa. Lui non ha mai un grandioso successo come può essere stato quello di Farinelli, che ha avuto l'Europa ai suoi piedi. Anzi, lui lo incontra, Farinelli, lui giovanissimo incontra un Farinelli all'apice della sua fama. Però lo faccio viaggiare con un discreto successo per tutta l'Europa, Venezia che è la città della sua formazione, poi Parigi, poi Londra, conosce Handel, conosce Vivaldi, conosce Goldoni, anzi con Goldoni intreccia una particolare amicizia, e proprio il fatto che non sapessimo niente di lui mi ha permesso di fare di lui il personaggio che io volevo. Cioè ho fatto di lui una sorta di eroe dolente, di un eroe arrabbiato con i propri genitori per avergli portato via la possibilità di procreare e la possibilità. E per tutta la vita io gli faccio inseguire un musicista e un librettista che scrivano musica e libretto per lui di una vicenda che in qualche modo possa raffigurare il suo dramma umano. E questa vicenda io la trovo in un personaggio biblico, Jefte. Jefte è uno dei giudici, lo troviamo nel libro dei giudici, uno dei piccoli giudici, il quale, figlio di una prostituta, viene allontanato proprio perché figlio di una prostituta, viene allontanato dalla comunità di Israele. Però quando Israele ha la minaccia di truppe nemiche, si ricordano di questo impavido ragazzo che nel frattempo è diventato un vigoroso capobanda, e gli dicono: arruola un esercito e difendici. E Jefte accetta, e nella Galadita, e nell'immediata vigilia della battaglia con l'esercito nemico davanti, lui chiede al suo Dio, che è il Dio di Israele, chiede al suo Dio la vittoria, gli dice: Dio, io sacrificherò a te chi mi correrà incontro per primo quando tornerò a casa. E a casa gli corre incontro per prima l'unica amatissima figlia. E lui la sacrifica. Guardate che questo ci costringe a guardare l'altra faccia di Dio, perché questo non è il sacrificio di Isacco in cui arriva Dio a fermare la mano col pugnale alto levato. Qui il sacrificio si compie. Ed è terribile, noi dobbiamo guardarlo in faccia, quest'altra faccia cosa tremenda, di Dio. Certo. E lui per tutta la vita insegue chi scriva. E infatti Handel scrive un famoso oratorio, che è un'opera straordinaria, pensate che io ce l'ho tutto nel mio iPod, me lo ascolto. Scrive proprio Jefte, se voi andate a vedere Jefte, digitate Jefte Handel, vi viene fuori tutta una serie di occorrenze. Se ho ancora un po' di tempo, voglio dire che io per scrivere questo libro ho mobilitato mezzo mondo, perché oltre alla consulenza continua del mio amico oboista, ripeto, Giuseppe Nalin, ho scomodato i più importanti teorici che so della stregoneria italiani, i giochi di gente che ha pubblicato libri e con i quali mi sono messo in contatto, i giochi di carte, perché i miei personaggi ovviamente ovviamente giocano a carte, poi che so, ma insomma il museo delle carrozze, le armi che venivano usate, ho mobilitato una documentazione straordinaria. Ho mobilitato mezza Italia per documentarmi per questo libro. E ripeto, è venuto fuori, ma fin da subito io ho capito che dovevo raccontarlo così, sia chiaro. È venuto fuori un feuilleton, un romanzo di appendice. Di quelli, per intenderci, si chiamano così perché venivano fuori nei quotidiani come ed erano come proprio parte del quotidiano ed era un modo... Perché il lettore magari gliene fregava niente della notizia XY, ma voleva sapere come andava avanti. Il fumetto delle strisce, delle strippe. È proprio quello. Feuilleton è sinonimo, se vogliamo, di fumettone. Io ho deciso di raccontarlo così. Per cui è un libro pieno di notizie, di storie, di invenzioni. Mamma mia, sarà... si entra nei sotterranei di Parigi, si entra nelle taverne di Londra, si viaggia in una Venezia misteriosa e poco nota, eccetera, eccetera, sempre con questo personaggio. Ed è, insomma, chi l'ha letto, ripeto io... Ma è già uscito? No. Questo qui sta viaggiando e sta ancora cercando un editore. Proofreading, praticamente. Un editore fuori dal Veneto. E chi lo ha letto ha detto, insomma fuochi, fuochi d'artificio. Immagino. Chissà che esca presto. Esatto. Sì, beh, io non ho fretta. Io non ho fretta perché qui nel nord-est... ovviamente non avrei difficoltà a trovare un editore. Però pensi che sarebbe riduttivo nel senso ma penso come respiro? Penso che valga la pena che respiri a livello, a livello italiano. Beh, devo dire che leggevo recentemente, ma proprio molto recentemente, di questo fatto della biblioterapia, che sta prendendo piede anche in Italia dopo essere nata in Inghilterra. Ho letto anch'io, sì. Biblioterapia. Sì, ho letto anch'io. Io devo dire che, ecco, romanzi di questa fatta praticamente sarebbero un qualcosa di straordinario. Noi lo attendiamo naturalmente questo e l'altro e altre future opere, perché questa documentazione, come dire, minuziosa e questa mancanza di superficialità, credo che siano una cosa straordinaria. Guarda, come tu sai, io ho insegnato tra università e liceo, ho insegnato una vita. Ai miei allievi raccomandavo l'unica dimensione di libertà autentica, che è la lettura. La lettura sei tu che scegli, sei tu che sei attivo rispetto allo strumento di conoscenza ed è l'unico strumento che ti permette di formarti una tua autonoma, anche altra cosa, sia chiaro, certo, i contatti umani, eccetera, ma sul quale tu decidi dall'inizio alla fine, sei padrone tu dall'inizio alla fine, ti costruisci una tua personale misura del mondo. Di recente sono stato invitato dall'URSS di Treviso a tenere una conferenza sui valori della lettura. Ecco qua. La lettura è guardate, io voglio chiudere questo mio appuntamento con voi con una cosa di cui vi ringrazio di questo appuntamento. È una medicina, ed è una medicina anche in condizioni estreme. Quando venne fuori il delitto della Contessa Onigo, da Reggio Calabria mi telefonò una persona e mi disse: sono un malato terminale, era verso ottobre, sono un malato terminale e non vedrò Natale. Io mi commuovo ogni volta che racconto. Ho letto il suo libro e per due giorni me ne sono dimenticato. Biblioterapia. È verissimo questa cosa. Allora, e non è un'aspirina. No. E io che sono una grande letterista. Diciamo, siamo orgogliosi di aver tirato fuori questo. E purtroppo a malincuore ringraziamo tanto. Alla prossima, che speriamo che sia presto. Vero? È già la terza volta che vengo. Quindi... Noi contiamo su altre volte. Altro che. Ma vengo volentieri. E ci contiamo anche veramente col cuore. D'accordo. Vabbè, dai. Allora, ancora ringraziamo e salutiamo tutti i nostri ascoltatori. E niente, gli auguri di Pasqua glieli faremo per Pasqua, visto che